Sola mi fa il grazzo da me stessa, mio vado sempre a messa, ma prego assai il Signor. Vivo sola, soletta, là in una bianca cameretta, guardo sui tetti, saprei narrare. Sono la sua vicina che la vien fuori d'ora importuna.